La trasmissione, se è concesso dirlo, perché comunque cerchiamo di non fermarci ai generi musicali più ascoltati e di più facile, e quindi anche di più facile ascolto. Cerchiamo di usare questi tre quarti d'ora settimanali che abbiamo a disposizione, che mettiamo a disposizione rispetto ai gruppi emergenti o comunque alle esperienze valide musicalmente parlando della nostra zona, per ascoltare anche musica che se no difficilmente riusciremmo, non dico a incontrare, ma quantomeno a conoscere neanche, perché poi ci sono dei generi musicali che veramente vengono coltivati in casa da poche persone, che poi diventano veramente una cosa da setta quasi, perché al di certo. Fuori delle persone che fanno questi generi musicali, che coltivano questo interesse, è difficile che si sappia della loro musica. Sì, io non credo che poi tutto sommato la mia musica sia una musica che certi gruppi un po' particolari